No, io a Roma non riesco proprio a dire di no. Non so cos'è che però c'è una cordialità scanzonata, a volte disinteressata, a volte cialtrona a Roma, a cui non riesco a non sottostare. E tutto quello che mi viene proposto io lo accetto. Che sia una cremolata offerta da un cameriere anche se non ho fame, una passeggiata sul Lungotevere se sono stanco, che sia una proposta editoriale, una canzone in romanesco cantata in cambio di 50 centesimi. No, io non riesco a dirle di no. Là sotto l'arberi, per Lungotevere, le coppie filano, li baci scrocchiano, se non sei pratico, da raggiamoccoli, per Lungotevere non ci passa.